finisce la lezione. Sei solo chiacchiere, sì, solo chiacchiere. Sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Ci siamo. Perché abbiamo già qua sotto mano il flyer spiegazzato, perché è passato per le mille mani dei componenti e delle componenti della redazione della radio, le varie trasmissioni che si susseguono durante il palinsesto per molte ore alla giornata, dalle 8 a mezzanotte, alle volte anche di più. E perché vi ricordiamo che Radio Onda Rossa ha bisogno di tutte e tutti voi per continuare a trasmettere, per continuare a fare il suo lavoro di megafono di quel che succede in città e anche di promozione, poi in realtà di dibattito, di eventi, di cultura, di politica, di dinamiche, di lotta, insomma prima che sia troppo tardi per tutte coloro che possono uscire di casa solo in questo momento, insomma, che hanno avuto da fare, che stanno impicciati, che stanno in giro, che si vorrebbero andare a fare 2-4 chiacchiere con i compagni, ricordiamo che ormai ovviamente arriverete agli sgoccioli, al chiacchiericcio finale, che per molti e molte, fra cui il sottoscritto, preferisce molto di più alle iniziative stesse dei compagni il prima e il dopo, insomma, ma questo è un fatto così di vetustà. Comunque, insomma, dato che bisogna fare di necessità virtù, se volete spazio sociale 100 celle aperte, via delle Risate 5 Roma, si è svolta l'iniziativa trasporto pubblico a Roma, ATAC referendum, quindi dicevamo, se volete andare a chiacchierare a iniziativa terminata, a mangiare, a bere una birra e a stare in compagnia, insomma, 100 celle aperte adesso. Poi fortunatamente c'è una locandina, più un flyerino, non una locandina, meno maneggiato. Dall'altra parte c'è scritto Radio Onda Rossa presenta Orasi, una delle più interessanti artisti hip hop della scena militante inglese. E non aveva abbassato il cursore. Serpe in seno da Roma e Togare da Bari. Presentazione della nuova scarcerata. Ma già questa sera c'è la scarcerata. Ecco, vedi, un motivo in più per andare a 100 celle aperte. Ad accattarsi la scarcerata uscita nuova di stampa. Primissima stasera. Uscita pubblica per la scarcerata 2019. Venerdì 9 novembre. Quindi, dicevamo, insieme alla scarcerata. Ora si serve in Sino e Togaref, centro sociale occupato per gestito Forte Prestino, via Federico Lippino, 100 celle Roma. Ingresso a 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa. Andando sul sito della radio www.ondarossa.info, andando su Sostieni, trovate tutte le modalità, il 6180 4001, da testare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001-00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56. Ondarossa@ondarossa.it per le mail alla redazione, 0649 17 50, il recapito telefonico della radio. Questa sera pochi dischi, molte tracce in formato digitale su supporti telematici, insomma gli MP3, quello che volete, perché proprio della iniziativa di venerdì prossimo andremo a parlare, andremo soprattutto a farvi sentire della musica. Questo perché la radio va spinta. Va spinta perché, dicevamo, appunto, abbiamo bisogno del vostro contributo in tutti i termini. Quello che ci preme ricordarvi, anche se un po' tutto sommato ci dispiace, perché ve lo ricordiamo spessissimo, eppure nell'ultimo periodo avete sempre risposto a quelle che sono state le sollecitazioni della radio in termini di finanziamento, in maniera anche inaspettata. Comunque bisogna continuare a sostenere la radio, perché la radio, dicevamo, vive grazie ai vostri contributi. Contributi che ci sono lieti e graditi qualora sono associati anche a degli eventi divertenti, delle cose carine da fare insieme, come la serata hip hop del Forte Prenestino di venerdì prossimo. Stimulating to the women and the men, so y'all above all, first of all, my mission is to be clear, secondly, slide over so my brethren can slide up from the rear. E quindi andremo a dare un'occhiata a questi tre gruppi di compagni, questi tre formazioni, Serpe in Seno sono un collettivo, a volte in due, a volte di più. Li conoscete da Roma, da tanti anni nella scena militante hip hop. Arrivò, vabbè, poi ne parleremo, dai. Ora sì, che viene invece dalla scena hip hop e non solo britannica, e Tokarev da Bari, proprio Tokarev. Ci siamo risparmiati stasera un'ulteriore, e gli abbiamo risparmiato un'ulteriore intervista in diretta, anche perché ce n'è una splendida fatta qualche giorno fa dai compagni e le compagne della redazione della radio, che abbiamo quindi deciso di mandare in forma integrale. Dura non moltissimo, una ventina di minuti, è piuttosto interessante e denota l'entusiasmo con cui i due ragazzi di Bari ci mettono appunto nell'esprimersi nel loro modo, nel loro linguaggio, che è appunto quello del rap, dell'hip hop. Una dimensione abbastanza indefinibile tutto sommato, perché spaziano con delle basi più tipicamente fatte di loop, e quindi adatte a rapparci sopra, a invece delle contaminazioni verso il crossover, quindi con delle chitarre elettriche piuttosto potenti e frontali. È il loro spokerare sopra E quindi ascoltiamo Sheba e Nino, due compagni di Bari, ossia i TKE o Tokarev, ci tengono a dire e a chiamarci fra noi i compagni. Lo sentirete dall'intervista, eccola qua fra qualche secondo. Dai, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. Quindi abbiamo introdotto l'intervista proprio con un loro pezzo, siamo in collegamento con i Tokarev. Ciao! Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Oh, che piacere avervi qui, anche perché è stato il vostro un concerto, quello che avremo a breve, il 9 novembre, che abbiamo ricercato abbastanza, nel senso che già volevamo fissare per prima dell'estate e invece poi alla fine è slittato, ma ci ha fatto davvero molto piacere. Un gruppo, un duo hip hop, come avete potuto sentire, che magari non in tantissimi conosceranno, ma che a noi è piaciuto molto. E non lo so, come vi vorreste presentare? Come presentate questo progetto che va in giro ormai da qualche anno? No, questo progetto in pratica da febbraio è uscito. Prima di tutto noi siamo contentissimi di stare in contatto, in collegamento con voi, perché di venire da voi, non vediamo l'ora davvero. Questo progetto da febbraio è uscito, il 3 febbraio, e in pratica lo presentiamo come la nostra contestazione quotidiana, cioè il nostro vissuto portato dal basso, da dove veniamo noi, cioè ciò che ci viviamo tutti i giorni. Portato in una veste contundente che è il titolo dell'album e anche del pezzo con cui ho aperto l'intervista. Sì, contundente, dovremmo esserlo in questo periodo, per comunque sensibilizzare dovrebbe essere contundente. E come dire, dal punto di vista musicale, un po', no, l'avete, chi ci ascolta sicuramente l'ha sentito. Insomma, la caratteristica sono liriche piuttosto strette. Tra l'altro, per me che barese non ho confidenza, nemmeno semplicissime, sempre da capire, non incomprensibili, ma comunque molto stretto. Musica, come dire, abbastanza marcata, abbastanza hardcore, anche se mi sembra che voi preferiate definirla una base più metal che hardcore. E quindi dal punto di vista musicale vi chiederei quali sono un po' le cose che vi piacciono di più, quello con cui siete cresciuti e quindi quello che vi ha influenzato. Noi siamo cresciuti molto con la Posse, no? Sì. E quindi tra Assalti Frontali, 99 Posse sono stati comunque la base del nostro ascolto. Con poi un po' tutto il rock, diciamo, il quello punk, che comunque... Il punk, il flash... Ovviamente poi alla fine quando inizi a ricercare ti butti in un mondo che... praticamente immenso, cioè dalla musica metal al rock, al grunge, il rap, l'hardcore, il metal, quindi un po' tutto, insomma. Poi alla fine è intrinseco, no? Poi alla fine è come se assorbi tutto e poi sono i testi che dalle viscere, praticamente a Bari si dice dall'andram proprio, poi alla fine cioè la musica ti trasmette e ti dà anche la quinta dimensione del testo che poi vai a metterci, insomma. Cioè poi quando fai anche, diciamo, vuoi combattere qualcosa, le parole poi ti vengono e magari ti marcano ancora meglio con musiche più cupe, insomma, un po' come siamo noi. Certo, allora io per questo volevo mettere un stacco musicale, questo lo scelgo io, il prossimo lo scegliete voi, quindi iniziate a pensarci, pensato di mettere Caina e Abele. Ok. Il problema è trovare a bene chi l'ha visto, ha detto che era fuori di sé. Arriva da bere, confondendo sfumiamo e torniamo alla nostra intervista. Vediamo innanzitutto se ci sono ancora o... Sì, okay. Il pezzo sicuramente lo conoscevate già, quindi magari a differenza di noi lo state ascoltando, non lo so, magari meno. E noi una domanda che volevamo fare riguardava la produzione di questo disco, cioè su come l'avevate prodotto, come l'avevate diffuso e in generale anche quali erano stati i vostri metodi, i vostri rapporti, con quali relazioni avete costruito andando in giro a, a portare la vostra produzione. Allora, tu parli autoprodotto ovviamente come tutti i nostri dischi, ma ovviamente molto con orgoglio lo diciamo, cioè nel senso che alla fine la nostra musica vuole solo rimanere, diciamo, cioè crediamo che comunque la parola è azione, perciò ogni azione magari se non è corrisposta ad una determinata tra virgolette ideologia politica, noi la facciamo e ce l'autoproduciamo. Siamo andati poi al Silver Room studio di DJ Argento, che abbiamo preso le basi da Afok, che è una beatmaker, una di Bitsunami, questa qua, sì, di Caine Aviere, e le chitarre di Mastorana. In tre pezzi ci sono le chitarre di Simone Mastorana, che è un musicista barese, e in pratica poi sta ora su Spotify, su tutti, diciamo, i, come si chiamano, le piattaforme le piattaforme digitali. Ok, quindi diciamo che anche se quindi voi siete un duo, quindi non un certo un gruppo grandissimo, però in pratica nella produzione di questo disco le mani sono state tante. Sì. A partire da DJ Argento, poi chitarrista, Apoc, un beat di un altro beatmaker e un altro da Cinema e un beatmaker americano, e poi i testi nostri e niente, questo. E questo è. E insomma poi l'abbiamo messo comunque su queste piattaforme digitali, sì, le abbiamo fatte e ora cerchiamo di portarlo live, insomma, quindi siamo molto felici di venire lì, è come se fosse la nostra anteprima, insomma, cioè noi lo presentiamo lì. Felicità che condividiamo completamente. E invece c'era un'altra domanda dall'altra parte del microfono. Sì, ciao. Allora, intanto benvenuti su Radio Onda Rossa, anch'io. Così calco la mano sul fatto che siamo molto felici di avervi live, perché è un po' di tempo che vi ascoltiamo, vi mandiamo in onda, insomma, e siete un gruppo che vale la pena. Quello che vi volevo chiedere è se ci volete un pochino parlare della scena hip hop pure di Bari, chi sono altri gruppi, se ci sono altri gruppi con cui vi confrontate, suonate insieme. Com'è a Bari la scena hip hop? No, la scena hip hop, diciamo che è, non lo so, sinceramente compagno, in pratica noi abbiamo, negli ultimi 3 anni abbiamo suonato con dei gruppi musicali più che altro rock, per fare delle prove, abbiamo fatto un live insieme, però riguardo la scena hip hop condriaca, nel senso che non ci confrontiamo in realtà con la scena. Non voi so. Vi rifate più al mondo punk, rock, eccetera, piuttosto che a quello hip hop. No, non è per la scena, in pratica no, forse è anche la condizione attuale che viviamo, nel senso che noi ci confrontiamo tutti i giorni quando usciamo da casa, quando vado a lavorare cose con una condizione diversa, e quindi forse non è che non c'è tempo per la scena, che la scena, non lo so, abbiamo visto un po', non ci stiamo proprio all'interno, non sappiamo cosa, capito, però non perché non siamo hip hop, nel senso che la scena di Bari da 2 anni a questa parte non abbiamo un confronto. Okay. Solo questo, da 2 anni a questa parte. Tempo addietro abbiamo partecipato a delle iniziative dove però rispetto per la scena che a Bari invece ci ha portato tanto, ed è quella comunque da inizio 2000, anche molto prima del 2000, da Loop 5, che era un producer rapper barese, Rino, poi la scena con Mirko Argento e comunque la scena di Tecati, tanti rapper comunque in Puglia, a Bari hanno dato davvero tantissimo. C'è stata una grande scena, in questo momento siamo tutti nell'oblio forse. Ciao, invece io volevo farvi un'altra domanda, volevo ritornare un attimo ai vostri testi, insomma, per chiedervi, anche per far sapere, insomma, a chi ci ascolta, quali sono gli argomenti che più sentite vicini, che più amate toccare, se c'è anche qualche testo specifico a cui siete particolarmente legati. Beh, allora, diciamo che sicuramente, diciamo, partiamo dal presupposto che magari quando scriviamo è come se ci medesimassimo in noi e in noi con i ragazzi, con tutte le persone che magari stanno vivendo, e mi ricordo, cioè tutti gli italiani, che magari tutte le persone che stanno vivendo comunque un disagio che si basa su un abbandono sociale, diciamo, una cosa sul fatto che questa ingiustizia magari noi ormai la viviamo ogni giorno, e quindi diciamo che noi trasmettiamo questo. In fin dei conti non vogliamo ovviamente, cioè non ci mettiamo nella posizione di insegnare, perché siamo gli ultimi che possono insegnare. Noi solamente facciamo ogni giorno è un'azione, quindi magari ogni volta che scriviamo siamo attentissimi nelle parole, perché nelle parole comunque si trasmette qualcosa. Cioè noi possiamo dire pure il nostro vissuto, la sofferenza, magari una sofferenza che in questo momento qualsiasi persona sta vivendo. Quindi alla fine è come se noi vogliamo, quando ad una persona si inculca uno spirito, una coscienza, diciamo, questa coscienza può essere, tra virgolette, ripeto il titolo, contundente, nel senso che capire determinate problematiche, capire, innescare una reazione, insomma, quello è quello che ogni persona deve voler essere, cioè una persona buona, ma una persona che agisce. E con questo... No, vai. Il brano, diciamo, esatto, eravamo lì, eravamo. E cosa stanno capendo? Il brano al quale siamo. Aspetta, diciamo, dimmi. No, il brano è anche al quale siamo più legati. Ah, il brano a cui siamo più legati. Sorry Mama. Vabbè, Sorry Mama. Il brano a cui siamo legati perché perché quel brano ha una valenza ancora di più. Cioè, sono sì, di Cucchi comunque. Siamo stati anche comunque presi di mia un po'. Poi c'è stato anche un confronto addirittura costruttivo, tra virgolette, però l'interrogatorio ho fatto comunque in un commissariato e cose, è nata quella canzone subito dopo, dei giorni dopo. Sì, noi siamo stati comunque fermati, denudati in caserma, e quelle cose sono cose che comunque ti spaventano. Quando ne esci in letto, tu dici, cioè, capito? Siamo tornati a casa. Sono cose che poi quando ti vive ti segnano. E non ho paura nel dire che dopo una cosa del genere può essere che oltre che è uscito il disco, abbiamo avuto comunque, sai, la cosa di scrivere, abbiamo detto vabbè, comunque grazie perché ci hanno preso e ci hanno fatto scrivere, però dopodiché abbiamo avuto comunque una sorta di sofferenza psicologica, la dignità, l'interrogatorio, sono questi davvero che assurde, anonime, poi poggiate, roba assurda. Magari questo brano Sorry Mama ce lo andiamo a sentire, così magari capiamo anche meglio di che cosa parla, e poi dopo torniamo in voce. Va bene. Perfetto. Le notti brave, le storie nostre, le luci blu, nascosti ai bar. Sorry mamma, baila la bamba, sorridi mamma, stasera balla. A me non piace la gente che parla, di quanto sei in gamba ad usare, la gente che mente, che se ne compiace davanti un bicchiere. Con gente che neanche conosce, o di guardiani dell'Eden, o di falsari di corte. Sì, lo sai, era assordante il rumore dei distributori accesi. Io fuggi per andare fuori, sentì i carabinieri ordinare il pranzo. Poi mi dissero, signorina, questa è una caserma, non sta mica la prima dell'opera. Aspetti quel suo ragazzo, il mio ragazzo intanto cantava Tudor Steve agli sbirri di sopra. Si può darsi che una rima poetica drammatizzi una situazione, ma credimi che quando la vivi ti ritrovi senza parole mentre preghi e vedi che la tua vita scannerizzata precipita e preghi mentre gestisci il tremolio delle caviglie sui piedi. Ma finché saremo inquieti ci sarà sempre musica da fare, finché saremo saggi l'ombra avrà sempre voglia di raccontare. Perché amico ricorda che non è vita una vita priva di rischi, perché in fondo amico ti dico che la vita consacra le dinamiche dei dischi. Le notti brave, le storie nostre, le luci blu, nascosti ai bar. Sorry mamma, vai alla bamba, sorridi mamma, stasera balla. Non ho lavoro, legge viaggi, non c'è governo che legga i saggi. Sorry mamma, vai alla bamba, sorridi mamma, stasera balla. Che vuoi insegnarmi? Sono un rapper che ha preso le armi. Cosa vuoi comprarmi? Il treno della fame parte dai contanti. I tuoi risparmi sottratti. Il compagno e lui si è fatti i festi. È il commercio delle parti. Politicanti con le mani nelle arti. Canzone sa in cielo il tempo come passa in pochi metri quadri. Carne macinata sul termosifone al posto di una donna. Manca ormai da troppi anni. Il respiro è spento, vive l'inferno. Nelle sue prigioni a 12 mesi d'inverno. Ogni via chiude sacrificio, calvario, il micro. Storia nel mito, piani sul viso. Un figlio in affido. L'autostima in avaria, la stringo al cuscino. Come per cambiare un ideale, un'utopia. Lo spray torna in questa ferrovia. HR, pupille rivestite in Kevlar. Nuova prospettiva passa da Mantegna a Rembrandt. E poi tutti fermi sull'attenti, in stand by, in stand-all. E noi a lunedì crollei, pui come Senna. E l'Italia che deraglia sui binari di una radio stanca. Torte mala nello stereo, ossia non smette mai di guardarsi indietro. Le notti brave, le storie nostre, le luci blu, nascosti ai bar. Sorry mamma, vai dalla bamba, sorridi mamma, stasera balla. Non ho lavoro, lei c'è viaggi, non c'è governo che legga i saggi. Sorry mamma, vai dalla bamba, sorridi mamma, stasera balla. E torniamo in voce. Sì, scusate, ecco, vi avevo chiuso avevo abbassato il cursore vostro. Ecco, adesso ci siete anche voi. E niente, quando sono le 19:27 noi andiamo verso la fine dell'intervista, anche perché avevamo un'altra, ne abbiamo un'altra subito dopo a catena. Però, insomma, a meno che non avete qualcos'altro che volevate aggiungere, altrimenti rimaniamo all'appuntamento, quello del 9 novembre, per tutti e tutte. Sì, rimaniamo, ci vediamo il 9. Bella storia, ci facciamo. Senti, per il 9 novembre, vabbè, io vi faccio una richiesta, ve la faccio in diretta, così ovviamente non potete dire di no. Quindi quello che vi volevo dire è, noi qui abbiamo una certa passione anche per degli spot, dei jingle che mandiamo in onda per Radio Onda Rossa, che un po' ricordano qual è lo spirito della radio, quindi che siamo contrari alla pubblicità, non riceviamo finanziamenti, è tutto autogestito, nessuno prende stipendi eccetera, come dovrebbero essere i posti dei compagni e delle compagne. Quindi vi chiederei se magari avete voglia di farci anche voi un jingle, uno spottino, magari se non lo volete fare ora in diretta perché è un po' una messa in mezzo eccessiva, però se ce lo volete fare per il giorno del concerto ne saremmo molto felici. Allora aspetta, ce l'abbiamo, aspetta, veloce e vai. Non si faccia in un gram, non si faccia in un drink, c'è l'aria marziosa, do la capa gir, va la cangiata, quando ha cangiato la lì, a quando sembra lì, onda rossa, tu da te, no, aspetta, diretta, rifacciamola. Ce l'abbiamo ancora con la lira, quando sono passati all'epoca, aspetta, uno, due, tre. Non si faccia in un gram, non si faccia in un drink, c'è l'aria marziosa, do la capa gir, va la cangiata, quando ha cangiato la lì, a quando sembra onda rossa, tu da te. Grandissime, veramente bello. Noi non abbiamo capito nulla perché è bello. Allora, non fare il, aspetta, te la faccio in italiano. Vai. Non fare il grande, non fare il dritto, che a Bari si dice che non fare il dritto, il furbo. Okay. Se l'aria mare si alza, qua la testa gira, Bari è cambiata, quando è cambiata la lira, quando stava onda rossa, tu dov'eri? Bello, molto bello, ecco, grazie. Noi ci ricordiamo l'incredibile opposizione tua, c'è quel doppio CD, quindi possiamo dirlo, quando stiamo da studio Steve, capito? E aveva il doppio CD 99 e opposizione tua 94, bellissimo. Allora sì, va bene, allora a prestissimo, un abbraccio forte. Scusa, non abbiamo sentito? Dico, vediamo comunque al live dopo questa cosa. Certo, ma a maggior ragione, certo. Si registreremo. Non vediamo l'ora comunque. Perfetto, ciao. E allora ricordiamo un certo di dovere. Ciao, un abbraccio. Ciao. Suoneranno live per Radio Onda Rossa insieme ad Orasi da Londra e ai Serpenzeno, che sono più nostrani di Roma. Quindi ci vediamo tutti e tutte al concerto. Se volete risentire l'intervista, perché vi siete collegati solo ora, potete sentirla ovviamente in streaming, il podcast, dal sito www.ondarossa.info. Adesso vi lanciamo con qualche minuto di musica e poi torniamo in onda, perché abbiamo un'intervista con una compagna che ci parlerà della situazione della foresta di Ambac. Ciao. E 30 minuti primi Radio Onda Rossa ai controlli, 25 o'clock in versione se spegniamo la serata di venerdì prossimo. Allora, prima di continuare, però, così volevamo citare una buona notizia, una notizia che abbiamo letto poc'anzi, è di qualche ora fa. ed è una notizia che riguarda, insomma, un compagno abbastanza noto a Roma, ci ha vissuto per un po' di tempo, ci torna di tanto in tanto per motivi, diciamo così, familiari. Compagno che è passato più volte qua in radio, qua in questo spazio, compagno di Blackout, di Radio Blackout di Torino, che ci dice: volevo comunicarvi che dopo 3 giorni di carcere, 3 mesi di firme, 2 mesi per riassorbire le ferite delle botte, della cenere prese in strada il 4 udienze, si è concluso il mio viaggio nelle maglie della repressione giudiziaria. Assolto dall'accusa di resistenza aggravata perché il fatto non sussiste durante la manifestazione Antifa di Torino, in zona Lucento, svoltasi il 10 febbraio scorso, e la ricorderete in molti, proprio per contrastare la presenza di Forza Nuova e Casa Pound, che ricordavano le foibe. E la firma è di Mastello, quindi gliel'avevamo promesso, bella Mastè, finalmente uscito da quell'incubo che è la repressione giudiziaria, che riguarda molti di noi, tutto sommato anche in tempi relativamente brevi, insomma, non certo per lui, però dato come vanno queste cose, insomma un abbraccio a Mastello e un arrivederci a presto, chissà che anche in questi studi. Riguardo a Tokarev, ritornando appunto a altri giovani compagni e compagne provenienti da quel sud Italia e in così, intrisi? No, non è questa la parola esatta. Comunque, che hanno assorbito tutte quelle violenze anche loro, come raccontavano nella breve intervista, insomma, di un episodio allora accaduto, anche loro nelle maglie dello Stato, della polizia, dei questurini, costretti a quella sorta di forca caudina che ti costringe, insomma. Beh, lo raccontavano benissimo loro, non c'è bisogno di ripetere quanto appunto sanno fare chi suona, chi canta nei loro pezzi. Leggendo un'intervista più lunga, un pochino più esaustiva di quella che abbiamo potuto fare noi nell'arco di 20 minuti, insomma, emerge un vissuto, un quotidiano che traspariva, che loro citavano, fatto anche di situazioni e di momenti di crisi creativa, insomma, dovuti alle vicende proprio della vita, al fatto che bisogna appunto andare a lavorare. E bisogna andare a lavorare proprio come fanno a fare la cinino, loro citano, cioè la raccolta dell'uva, quel lavoro stagionale che si fa nelle campagne pugliesi nel momento in cui occorre far produrre le vigne e quindi fare una serie di lavori di cura in agricoltura, che vengono normalmente svolti attraverso lavori di bracciantato e regolato dalle leggi del caporalato, in cui sì, oggi grossa parte della forza lavoro è costituita da gente africana, da gente che viene comunque da altri paesi del mondo proprio a fare questi lavori molto umili e molto mal pagati. Lavori che comunque appunto in questo caso, in tanti altri casi, accomunano invece persone proprio di diverse provenienze, nonché indigene, nostrane, insomma, gente pugliese che da sempre ha vissuto, un proletariato pugliese che da sempre ha vissuto anche di questi lavori in agricoltura, nelle grandi estensioni dell'agricoltura intensiva, quella dei pomodori, quella dell'uva, quella degli olivi. Say sticks and stones, they might break your bones, but the 9mm, it will bore your dome. I'm talking about the toe tagging, the body bagging, man, niggas are dying, mamas are crying, casket buying, who me dying, leave my family crying. Hell no, I cause them blood baths and showers, send me commissary, mother, fuck them flowers. Thoughts of slaughter, of leaving my daughters, hours and hours of fears running through my mind as I pick up the Zig 9 beef. E passiamo ora a un paio di tracce delle nostre parti, quindi dell'altra formazione, che spesso si associa a Pugni in Tasca, quindi sempre in seno Pugni in Tasca, un connubio efficace che ha prodotto molte robe in questi anni, dicevamo. Sempre il seno che conoscemmo ormai molti anni fa, proprio grazie a una cosa che a noi veterani, mamma mia, di Radio Onda Rossa, insomma, a coloro che non hanno così tanta dimestichezza nel modo di viaggiare della musica, delle proposte musicali, artistiche, comunicative di questo millennio, e che invece hanno dimestichezza maggiore con la plastica, con la diretta, se volete anche. Ecco, trovammo un dischetto che proprio in radio fu lasciato, ma sì, sono compagni, sì, vengono giù da riconosce quella, sono amici di quell'altro, sono fighi, eccetera eccetera. E fecero un disco che si chiamava Urban Blaster, che fu recapitato qui in radio, che mandammo per molto tempo, fino ad oggi, insomma, benché la loro produzione poi sia continuata appunto nella loro produzione non tantissimo recente in questo caso. Abbiamo selezionato una traccia, un paio di tracce che ricordano come appunto in quella produzione fatta con Pugni in Tasca rimandano a suggestioni cinematografiche, quindi I Nuovi Mostri e poi Gian Maria Volontè, Serpe in Seno, Pugni in Tasca, 25 O'Clock, Radio Onda Rossa. Lì sentiremo anche loro il 9 ho detto bene il 9 venerdì prossimo, non entra in testa sta data, dicevo il 9 venerdì prossimo in quel del Forte. Eccoli qua. For that shit, let me show you what I claim. I'm doing my thing, but everybody out in Cali don't gang bang. You better open up them mics and get out my face, give me some space. Better break out them old nights. You better run for the crib, cause running your jibs, I'll send you home with a broke back and cracked ribs. Microphones in control, so ready explode. Motherfuckers need to punch up the flex code. Solo il nostro piano. Difficile. missile che ci gestisce un booking. Sotto al palco di Ghost che si finge gruppi. Dacci free di loop e vi facciamo Brooklyn. Sulle braccia niente buchi, nottataccia Jungle Boogie. Roma mezza GTA, mezza Call of Duty. Da sotto sti lampioni non ci smuovi. Per reparti mobili davvero vieni con gli arpioni. Per pescare mobili che il cielo ti guarderà con occhi di satelliti e elicotteri. Te li ricordi Bottizzi, non c'ero. Quadraro, qualcuno ci vuole fuori dal quadro. Quale conto in banca, 4,40 e quanto contiamo. Quando il vento cade vi scriviamo che i nostri momenti sono fuori da orologio e calendario. Visionari sopra il dizionario, spicco sul pitmo. Io sfido l'Olimpo, Dio mi fa il beatbox. E scrivo che non vivo, ma scrivo lo schifo al ritmo. E se parlo colorato è perché capo nel grigio. Boulevard. Se pensiero, pugni in tasca, giù se rifi, strada elettrica, moritola. Non puoi concepire idee eccezionali che abbiamo fatto in cesta di anticoncezionali. Vuoi Safari e Piazza Affari, caccia grossa, sommossa. Suona bossa nova con le tue ossa, balla samba sulla fossa del caramba. Getta salma nella fogna, zero culto di carogna come libertà. Più di un secolo fa, afficia una stella carta gialla. Stecche sulle pa, nunca ma, disarmato se ne abbi ana. Da fate strade sa, che la dignità non paga, non apprezzo se dilaga. L'undice, si ma piaga, lui dice, si mi smaga. Questa city che mi uccide, mi ti lascia solo noia vaga. Non mi placa, vagami nell'anima che è vagabonda anonima. È un'etera senza radici, idroponica, distanza siderale dal fottuto militare. Di stanza sulla tua coscienza per poterla sorvegliare. Se pensiero, pugni in tasca, giù se rì, strada elettrica, moritola. Difficile che un fuoco solo perché dorme in loco. Matita in mano, ti sei bravo a disegnare il vuoto. Piacere sono il mostro, il mostro. Conosco la follia di volare con catrame e piume a sotto. L'ultima colonna no, pericolo flow. Che non mi riconosci se non dai lividi che ho. Lirico tonto, fiamma allo spirito. Spot, militi, spot, no, stimoli, no, brividi, sto. Niente svago, niente raio. Fumo e tabacco, tendono giù, furioso pazzo. Cattivo ragazzo, quando sul quadrante zeri sono quattro serpi sul palco. Le nostri portate il casco, beh, a fine show portavo selvaggio. Esci per il fuoco, non per rompere il ghiaccio. Beh, religion, vestito nero e grigio. Non giro alla roulette della radio perché abbiamo la Tourette. Vi smerdiamo. H from acquedotti flow, volonté dai pianerottoli dei lotti alle baglie coco. Anti come gatti da cassonetti, lotti contro porci antropomorfi con gli elmetti tra i gonati. Sto con chi resiste da Gazzacobani, burning brain su delle basi miei cebain che introduce quasi l'ora no. Sta in ritardo, mantidore ed ermellino, prega non divino, vestito di lino bianco ma nel nome del padre e della figlia che brucia e bancomat. Giarrettiera con semiautomatica, l'era della city vuole mimesi, tono della sintesi, se non capisci non dirmi di sì. Pessimi se metti che il mio rap di volte che ti tuffa i baffi alla Gioconda. Jordan sulle teste del gendarme giorna, lista verme in testa suona Marvin. Minerva testa mille armi, io col tempo che mi resta pensere mandanti. Bastardo t'ho bleffato, ancora me la rido, pure se tu mai cuscito, labbra col filo spinato. Siamo provvisori come dove dorme un fuggitivo e come dove e quando sono un obiettivo. Random kill di fango, Django zitti d'amianto. Canta mio musa la rabbia diffusa di chi non accusa la sorte, ma ne forgia un vanto chi non ha pianto. Gli occhi amaranti, sa che l'affronto lo regge soltanto chi non getta parole al vento. Rime a volontà, però non so, le prime al volo te le dedico, me le mangio, scaccio a medico, predico l'estate del dubbio e del rischio. Cambio registro, magistro con dubbio, sarà libertà per barabbe per Cristo, di sottofondo si udrà questo ritmo. Nostalgia di un posto mai visto per davvero. Ultima colonna non ne fa mistero, nella folla cerca un'alchimia. Ombra al nero, un colpo di coda che fraga l'acquario. Un corpo che sfugge dagli schedario. Benvenuti nell'inferno di questi tre minuti. Sentiremo addosso il dolore di tutti. Sul PC, ganti mica tre minuti. Il suono che si parla pure per i muti. Coi pensieri nudi che mettono il fiatone. C'è una sorta di egocentrismo nella depressione. C'è l'inizio della colpa nella confessione. Poca personalità, chiama la comprensione. Io sogno una notte a tre lune, quadraro in festa. Ma il comune mezzo amaro a testa. Quando l'uomo pieno di soldi incontra l'uomo con la pistola. Io non so chi muore, tu ascoltati, morri scola. Pugni in tasca, drammi, passione e voglia. Fai del male, pensa, fai del bene e scorda. Le casse fanno aia, la classe operaia va in paranoia, con la serpe in seno, mica in salamoia. E ama, quindi odia, vai Demis. Serpe in seno, Urban Blaster, Jules Henry, Dottor Demis, Nadal Estrigon, 2010. A tutti quelli che ubriachi di passione danzano intorno al fuoco della rivolta. Semihani! E questa è la intro di Urban Blaster, come avete potuto ascoltare, e a tutti quelli che attorno al fuoco danzano intorno al fuoco della rivolta. Eh sì, perché ora per cassonetti sul le liriche, il modo di presentare anche il vissuto di Serpe in seno è proprio quello della piazza, del quartiere, della vita, odio il mio veleno e l'arroganza in strada, in questo mondo in cui, in questa città, in questa metropoli, in questi quartieri in cui vorrebbero vederci sempre di più nel ghetto, relegati e silenti, pensieri clandestini con le ali nelle stive delle navi, diversi gli stili sulle strumentali, prega a mani giunte con la vivera sul collo, senti l'estasi, l'orgasmo oltre il culmine e il decollo, l'armata è tuo al tracollo mentre lei si spoglia e grida sera aurora. Ma questo non soffoca la vitalità dei ragazzi e le ragazze, quindi l'urlo di rivolta che si alza di tanto in tanto, fino a che te parla gesto e troppo ancora un po', ogni volta che ce n'è necessità, ogni volta che ce n'è bisogno, ogni volta che la misura è colma. Serpe in seno duole, il morso suo è letale, se la svastica sul sole oggi è il codice penale. Chi difende i dogmi dall'altare, chi resta a guardare, chi importando pace va al killer di mestiere e torna dentro un tricolore a tranci nelle bare. Tante madri e mogli che non voglio consolare, feticista del doblone, la tua merda non mi gusta. Così parla Jules Henry, come parla Zarathustra, umano, troppo umano, come nata sopra un beat feroce. Gli arcorchizza sotto al palco urlano, più veloce sia, non resto più a guardare, tra chi resta per me striscia per non inciampare. Il dramma quotidiano che mi spilla la pupilla, resto nella polveriera perché cerco una scintilla. Cammina nella strada, la testa nei tuoi sogni, e quindi traendo sempre pugni, pronto per colpire quando meno te l'aspetti, sublime, dalle produzioni di Serpe in seno. Interdetti perché il 25 aprile non festeggio se la dittatura va con... Ancora due tracce. Dopo il sangue di mio nonno sopra le montagne, non guarda la TV e piange insieme alla badante. Quindi Serpe in seno, fit, istigazione a delinquere, fine spaventosa, sono spavento per chi non ha fortuna. E poi Fammi accenne. Giorni nuovi, serpe in seno, assa rimpicchiata come asteroidi. Noi boy, b-boy con in testa il make noise. Se ne vuoi un po' resta con noi. Brothers, come peluche da acroid, un flesso appresso all'altro come con la polaroid. E non finisci sulle testate dei tabloid, ma ti becchi d'estate che non so se torni poi. E se torni poi porta luce a sti fratelli che ci stanno, i gargoyles almeno se stanno fermi. Non puoi pensare di tornare dai tuoi senza che capiscano che la sera stavi con noi. No, clap alla soulja poi, trash con me jam poi. Questo è un test, mi porti lo stress, che cazzo vuoi? Fatti un punto a me su un J&B, un Jack, un Black, la bella, un Bombay, e torna con i piedi tuoi. E non so se mi vuoi ma ti voglio e ti spoglio, con gli occhi se mi tocchi muoio. E poi mi ricordo solo che sbiascicavo su un foglio col cervello a mollo dopo un mega joint. Pugni in tasca, troppo dentro, serpe in seno, ti basta come esempio. Pugni in tasca, non puoi non stare attento, non famo come Mao, li colpimo tutti e cento. Pugni in tasca, troppo dentro, serpe in seno, ti basta come esempio. Pugni in tasca, non puoi non stare attento, non famo come Mao, li colpimo tutti e cento. Sogno fatta a fondo il mio progetto e tutto ciò che ho detto mi adopero per farlo in questo mondo maledetto. E rapperò sto verso pure il giorno del processo, quando l'avvoltoio leggerò il verdetto. La miccia sulla fiamma, come un baby like my fire, mi sbatto e do scintille come pietra focaia. In questa polveriera dove cresce la canaglia, c'è chi morde, c'è chi abbaia, chi credi che chi scaglia. Ti ho vista nella folla, avevi gli occhi da Black Panther. Lo spirito ribelle di una mena danzante. Uniamo i nostri corpi, formiamo un'altra banda. Oscura la tua landa come cenere d'Islanda. Sogni ad occhi aperti, faccia solo quelli. E se viene la realtà non mi trova tra i dormienti. Chiacchiere da parla, rabbia alberghi in altri ambienti. E lì mi troverai ad affinare intenti. Vittime impotenti, squallidi lamenti. Senti sentimenti spenti tra i palazzi decadenti. Ho i complici insorgenti con le bocce nella tasca. Tutto il fiato non mi basta, pietre sulla casta. Serpe in seno, untori del cemento. Serpe in seno, fischia come il vento. Pugni in tasca, non è un avvertimento. Non famo come Mao, li colpimo tutti a cento. Serpe in seno, untori del cemento. Serpe in seno, fischia come il vento. Pugni in tasca, non è un avvertimento. Non famo come Mao, li colpimo tutti a cento. Ho perso la calma e la pazienza. E poi da un pezzo che non vendo manca a caro prezzo. L'esistenza mia è il resto che prosegue e non mi fermo. E dammi un'illusione che non posso stare senza, un inferno. Tagli forte, tagli poco, spingi tanto, parla poco. Pronti a fare i zombie come operazione ogro. La colazione odio e colazione parlo. Quando godo serpe in seno todo loco. Un coro e mezzo al poco, forse passo dopo e pago. Sputo sul tuo piatto che tra l'altro non ci ho neanche mai mangiato. Sono un figlio ingrato, mio malgrado ti ho portato la primizia del peccato. Un frutto fatto da un camice bianco sul banco del mercato. Senza fiato sogno il testo, muovo il culo perché qua una croce non fa testo. Non parlo a bassa voce perché no, non ci riesco. Cresco in gabbia a cielo aperto, se ti cerco nel deserto e attraverso i temporali. Nel ventre c'ho più gradi che sul petto i tuoi ufficiali. Pirati del domani, ignari in mari con gli squali. Che dici? Non credo alle fenici, ma soffio sulle braci. Da paura. Basi potenti. Senti che beat. Ed è questa, eccolo, produzione Gandalf, Serpe in seno. Roma stamattina, anzi, ma si è spesa tra 6 milioni di ansi, ma. Roma inghiotte l'ansia, caga adrenalina. Siamo nella merda, ma pazienza con C. Ma non ci basterà, non ci basta il rap. Che sta città spera in un incendio, ancora non lo sa, non lo sa. Roma è sta bassa cresta nelle teste, Brody Rai. Oh, tesoro, te solo mi capisci quando sbaglio. Dai, non arrivi mai al dunque. Rischi di vedermi chiuso al gabbio in aula bunker. Cin cin col brutto e blu, brindo a tutto il crew. Gruppento contro le T, diesel blu, blu. Comazzo su un bus, paonazzo. Dopo un giro di raccordo butto giù un romanzo. Tu sei scaltro, altro che punti allo scranno più alto a me. Basta il tuo scalpo sul palco come Malcolm. Ardo, Arcor, Giuliano d'Arco. Copri fuoco, Roma S. Non è un gioco nada, l'essere rogo delle chiacchiere. Combattere l'apocalisse, la poca linfa di chi disse. Nulla cambia mai come le stelle fisse. Suono buono per la fine, soundtrack per chi non arranca. Sogna picconate su una banca. Beh in fondo che ti manca, sto gambeller cancan. Arma di titanica che è un'impresa titanica. Dimmi timpanica, miti di plastica. Knockout atletica contemplativa. Non ci basterà, non ci basta il rap. Che sta città spera in un incendio, ancora non lo sa. 5:30 picchietto, caffè corretto, cornetto, cappotto nero ed elmetto, catapulta sul tetto. Se chi parla di rivolta va a mente. Lotta fatta di capi e pezzi del piottamente. Trema Roma, eccolo, serpe in seno, giù se l'estrigo in strada come Kendrick a Ferguson. Lascia stare l'hashtag, meglio armati di un'ascia. Sveglio coi demoni in pancia, stendo un piano di rivalsa. Danza sulla lama di contellacci, occhi e passi. La madama è nei paraggi, quindi è mucchio sassi. Mastico l'interiora, testa coda, uno poro. Nada l'estrigo ancora, death before dishonor. Troppo poco spazio tra un palazzo e l'altro. All'alto la serpa a doppio malto fino al giorno del disastro. Un astro nascente, un astro s'accende, un mastro s'accende. Tu se rappi, cacci la gente, rapper medio mediocre. Se non credo a te come al meglio le vincite del video poker. Pose plastiche da poser con le natiche sui poster. Mentre nei commissariati fanno hostel. On Artemis. Zé 06 491 750, recapito della radio. Del 56 minuti primi. E questa è così una scheda che si trova sul sito ufficiale di Orasi. Abbiamo fatto così una traduzione piuttosto maccheronica: la capacità di esprimersi in modo fluente e grammaticale con la parola. Da quando si è confrontata con la scena nel 2011, ora si è stata impegnata a lavorare con vari artisti in tutto il mondo. Con oltre 200 spettacoli alle spalle, ha potuto viaggiare in Europa con le sue fresche atmosfere neoteriche. E quindi l'amore per l'hip hop e il dub e questa nuova forma di espressione. Amante di pop e dub, ora si porta ai principi chiave della pace, dell'amore, dell'unità e naturalmente divertendosi sul palco, mentre condivide le conoscenze con il suo pubblico attraverso un flusso accattivante. Le sue esibizioni, intraprese con umile sicurezza, suscitano scintille ed emozioni che coinvolgono sempre la folla. Ha suonato con, coadiuvata con artisti del calibro DJ Supreme, Andy Cooper, Rodney B, T.I., Akala, Low K, Reverie, Chester P e Mistro, Logica, Lanard C, Le Method, Kimberly Novel, Joker Star, Michelle Parknus e Tony D. Rivel e più tanti altri e tante altre. Cresciuta a Wolverhampton, era la ragazza di famiglia che frequentava le scuole eleganti. Con un'educazione unica, ma sapeva sempre di queste scuole eleganti, ma lei appunto con un'educazione particolare, ma lei sapeva sempre dire la sua. Lo skate park, come per tanti kids e kids, è stato il luogo in cui è stata introdotta l'hip hop e da quel momento è iniziata la sua storia d'amore con questo genere. La carriera musicale di Ora si è iniziata con un progetto di scambio hip hop in Spagna, dove si è avvicinata a questa cultura e ha lavorato a fianco di una schiera di artisti di talento. L'ispirazione da quel momento non è mai venuta meno e al suo ritorno dal Regno Unito ha immediatamente salvato, pianificato e trasferito a Londra, dove ha trovato di nuovo terreno fertile per approfondire i suoi lavori in questa cultura. E da allora si è esibita quindi in molti posti del mondo, in Inghilterra, in Galles, in Irlanda del Nord, in Francia, in Spagna e in Italia. Un tour, un giro di viaggi documentati in un suo lavoro, in un suo disco, che si chiama Ebbets a Collaba. Allora, per fare in maniera tale che si trasmetta qualcosa di Orasi, che stiamo mandando a manetta in questo periodo, perché ha veramente un suono abbastanza particolare e moderno, direi. Proprio nella via di mezzo fra delle atmosfere alle volte suadenti, a volte dolci, ma è pure piene di rabbia, di astio, alle volte, verso quello che non va. E quindi proviamo un po' un esperimento, rimandiamo qui la traccia, perché questa roba qui è un altro lavoro di Orasi, un documentario che si chiama Artemisia, che lei introduce così con... con una rappata a cappella senza basi musicali. La base musicale gliela mettiamo noi, questa qua, qua sotto, che sta andando sotto la nostra voce, e proviamo a vedere come viene. Orasi on Artemis. Shunned from birth because she was essentially fatherless, but her mother knew her self-worth, so she sought for Armatis, but got scorned, warned, had to move far and quick. But a young girl was born, one half the twins. I'm connected to her and the earth, Artemis, and try and protect and serve all those who harbour it. Show respect to the world, it's marvellous and a blessing, yet we harm in it and can't reflect on the lessons. I guess a heart with no armour can't deflect deception. I suspect that it's just all in perception. My perspective is rich as my senses developing. Eventually sentences are irrelevant, they're ramblings I'm channeling on a level that you can't imagine, and breaking barriers. I'll be chatting with the animals instead of yamming them. I'm far from the savage and my heart is pure despite all the damages. I brought forth my anguish and transformed it to happiness that I'm always tapped into and ravishing. I managed to deal with it and do what I needed to move up to release it and heal up and reveal that I'm real strong. A hunter can't avoid it, set in stone. Thunders within, embedded in my genetic code. I roam with a hunger and I flex my bow, but for protection my arrows are set for goals. And get to know, I'm gonna kill it. I wanna be all I can be, no limits. Soul driven, I have dreams and I go get them. Got my soul asking me to go for gold, but it needs no permission, go get it. It seems that I'm so smitten with my whole vision that there's no need for hoping and wishing. I'm provoking my scope and my wisdom, the seeds of which I'm feeding to enrich my system. No hold bars, no restrictions, no false starts though, my heart won't forgive them. I set myself apart from those who were ridden in a prison where they don't know what they can become, beaten into a prison, mind distorted, conformed behind four walls, taught what the cannon can't climb towards. Freedom of mind is what I'm fighting for. Artemis, worshipped by the Spartans, she was the hardest. Così, dopo il suo primo lavoro, lasciato alle spalle, ora si ha dato alle stampe il suo nuovo LP intero. Ho usato il termine LP, eh? di debutto, quindi il primo lavoro esteso, lungo, che si chiamava Foot in the Door, appunto. Un calcio alla porta. Fatto con Fit Life, MC Index e Giabattakut, prodotto da Ibriz Frex, che sta per Frequence. I produttori ospiti includono Molotov, DJ Nappa, Dirky Dyke, Oliver Sadden. Seguì un tour di 10 settimane in cui ogni weekend, ogni fine settimana era pieno di spettacoli in tutto, era pieno di spettatori in tutto il Regno Unito, la Francia e l'Italia. World Play Magazine scrisse che Kicking in the Door è, cioè, Foot in the Door è lo stivale dei pesi massimi di Orasi, con il suo debutto in uscita di Foot in the Door, disseminato di bangers con artisti del calibro di Oliver Sander, Ditty Dyke, Dirty Dyke e Life MC. E quindi concludeva: Orasi ha aperto la porta, tutto quello che devi fare è attraversarla. A questo suo secondo album, questo suo primo album, seguì il secondo album, Satin Dabby. E stavolta Orasi si sbizzarrisce anche con altre sonorità, quindi le vastità dello spettro dub, del reggae, il jungle, la drum and bass, il grime, il dub step e tutto quanto un po' contaminato, messo insieme. Quindi questa sua cimentarsi con queste basi, con questi generi musicali, con questi beat, fornisce uno sguardo ancora più appropriato e diversificato in quello che è il pensiero e nelle liriche e nelle abilità vocali di Orasi. Allora non ci resta che ascoltare un po' di Orasi. Dysfunctionals. It seems people have noticed when I roll to shows, it's always alone. Like, yo, what's the motive? Are you just so focused or over-devoted and self-involved and emotional protest? No, I'm just emotionally broken and hopeless at being social, but it goes unknown because we're not yet psychic. So I always get the surprise and wide-eyed, why is this? I thought your life would be exciting and enticing, not lifeless, but inviting, because you always talk of inspiring, but you're caught up in some sort of crisis. You might just be private and a quiet one, but could be otherwise. You could be hiding and underlyingly frightened, or I'm blinded and misguided, and you're not as nice as I think. Look guys, if I seem rude, I don't mean to. I'm deep in solitude, peaceful, really wish I was a little more see-through, but to the point where I can't be seen. Boom. So if you call out obviously, I'm probably gonna turn around like say you bothered me, but honestly mate, you didn't, and I'm real sorry. So here's my apology beforehand, that was out of order, just ignore that. Yeah, my face talks pure facts, but it distorts because I'm just real awkward. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional, don't mean to to be so closed. I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed. I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. They say you regret what you don't say, not what you do. I wish I could say what I felt when I'm off stage and when I'm not in the booth. It's outrageous how I can talk to strangers but not to my closest faces. Yeah, I'm straight up, I'm just not that brave to embrace them and to say stuff like, I don't like you, I might love you, but I'm too shy to confront you. Even when I write, I say might when I know that I do. Still hide whilst holding the truth inside, cause I lack the courage. It's become a barrier, an obstruction to love. I can't figure out, I'm not impacted by the judgment of others. I can't even say I've been hurt or burnt in the past, or I'm a bad person that don't deserve it, or worse, that I'm too perfect for a man. It's not that I'm trying. I even went to a psychiatrist for guidance and suggestions, and near it helped, but arising questions reside in my mental. And no amount of counselling will get me out of this astounding mess I'm drowning in, when I'm the fountain that's allowing it. I need to plug and stop it before I look back thinking, what if I wasn't so shook, I was more upfront. I don't wanna wander on concepts. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed. I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. I'm socially uncomfortable, emotionally dysfunctional. Don't mean to be so closed. I try to open but I struggle to. I don't know what it is, but something's got to give. The problem needs resolving, cause I've had enough of it. Catch me in the club in the background with my hood up to my cap down. Looking like a dumb sod you should pat down, but trust I'm not gonna act out. Look, no trouble, I'm in my own zone. Close bubble, get to know. No disrespect, but I just wanna be left alone. So don't always expect hellos for someone that loves to share. I'm somewhat unprepared, stuck in a rut of being careful, but I'm not sure what I'm even scared of. But I've become aware that confidence, well, it's a problem. Cause when you've got lots, the consequence, it's dominant. But when you've got none, you're anonymous, lost and not autonomous. Just my thoughts and my hypothesis. Music taught me about myself and brought me up out of my shell. Now I'm more compelled to talk the thoughts I've held to an audience as well, and not hoard them all to myself, torment as I dwell. It's unfortunate I'm still flawed and socially awkward, but I had a goal and I chose to move towards it. Focused on my soul, foot in the door, kicked open, broke it to an applause. Each one sold its own reward. Thanks so much to those who show support. I'm full of hope as I soldier forward. Soldier forward, soldier forward, soldier forward. Ed ora I want out, ora sì. I want out of it, I want out. I'm tired of screaming and shouting it, but I want out, I want out of it, I want out. Cause I'm going mad in it. They say that it starts at home. Dad beats mom cause of alcohol, cause he lost his job and he's got no dough. The dole's his payday, lost all hope. He's going crazy, just can't cope. The pain it slowly taints his soul. Soon he can only escape through dope. His two kids, they escape on robe. Been alert from danger since day go. Since that day they were just days old. Exposed to the hate and the way it goes. On council estates, a basic mold. Gentrification makes it so. Segregation still so bold. Escape destination, don't think so. Make slow mobility so we can't grow. No one I want out of it, I want out. I'm tired of screaming and shouting it, but I want out, I want out of it, I want out. Cause I'm going mad in it. In holding social concentration camps with no goals to concentrate on, fam. Dreams miss sold to a spate and black. Disposed of rough, can't take those back. So we roll on road, shot weights on gram. Gotta make the most of our basic mass. Role model imposed a great impact. Gave me a home and a place in gang. Safe and soul safety at last. My foster home would just make me mad, and my foster fam wouldn't take me back. And the estate won't raise a helping hand. The relationship with the state, in fact. Probation once parole date has passed. Taming with our own name, baseball bat. Demonstrating the way that this nation acts. And I want out of it, I want out. I'm tired of screaming and shouting it, but I want out, I want out of it, I want out. Cause I'm going mad in it.

posti in seno vanto per nostri. Tutti fanno birdwatching qui sul lago di Tchaikovsky. Servo un quadro di Kandinsky, bevo whisky, Kokukovsky, rap nei dischi, zitti, ci dance, beat, war, la mia roba da centro sociale, non da social. Gira per le strade, se le incroci frate in gola come buona. Va di moda stare in coda per essere in, al contrario di chi è in coda per la moda, io riparto da qui. Dal sentiero di Ho Chi Minh, l'incubo per gli Yankee, lenti spenti, fermi sempre sull'attenti, ma attenti che l'Italia è magica, se non ti dà sai cosa ti fa, com'è che fa, rimane a bocca aperta frate, chiedi lo stand-up. Ratatatata, stile Vietnam, stile Shiaz, stile nostrano, il soprano, stile italiano, ti è chiaro mio hermano, se cado non cado in vano come i Marines, dedico agli States, tre parole, yes, hamburger in. Siamo noi due pazzi persi dentro questo film, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Questi sanno fare i soli, ratatatata, non puoi finire per cadere come in Vietnam. Siamo i pazzi dai palazzi made in Italy, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Non le stelle, non le strisce questa libertà, perché noi non siamo l'Italia America. Tu che sei tra gli esterofili perché fa trendy, che mangi bacon e steroidi stile Yankee. Tu che pensi di fare American rap, non c'entri proprio un cazzo come l'Emel Jack. Daniel, see you later, ci vediamo dopo Aether. Non ci rivedremo mai, nevo se nevo. Attraverso Photoshop diventano bulldog, anche Pincher. Give me five, dammi un cinque. Ma noi crediamo ai doli imposti, dimentichiamo i nostri. Con le bende agli occhi calpestiamo i posti, i pazzi fatti dai più grandi artisti. E ti stupisci, segui gli ospiti, sembra siano i padroni, noi turisti. E se tutto oro quel che luccica, chiediti qual è il motivo di ogni guerra che l'inizia, chiamano storia, ruba, spara, accusa, giudica, che usa. Io mi sento italiana e lo sono, come la musica. Siamo noi due pazzi persi dentro questo film, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Questi sanno fare i soldi, ratatatata, non puoi finire per cadere come in Vietnam. Siamo i pazzi dai palazzi made in Italy, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Non le stelle, non le strisce questa libertà, perché noi non siamo mica l'America. Meglio morsa dalle vivere che nella morsa di chi esorta le nazioni a essere libere. Nell'apparenza di una tregua che d'altronde può interrompere, perché conta azienda bellica ne investe sulla morte. È una prassi usare come scusa la scusa che incombe serio, una minaccia d'attacchi sugli USA. Sauto lancia due tre bombe, vola nuove vittime, ma è tanto colma di misericordia che le sporta si condissile. Quindi perda le menti, porta le menti al delirio. Se l'Occidente porta da sempre i nemici al silo, pure al martirio. Ultimo giro tirato al lucido, tiro per stare più lucido. Dimmi che accende le luci, ultimo fuoco sul pentagono. Sette bicchieri per Lenin, sette bicchieri per Ho Chi Minh. Altri sette prende da noi, è tutto made in Italy. Incubi, spettri, sangue amaro sugli affreschi. La vendetta passa dall'Italia, sacco Lanzetti, zio. Siamo noi due pazzi persi dentro questo film, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Questi sanno fare il sole, non puoi finire per cadere come in Vietnam. Siamo i pazzi dai palazzi made in Italy, tanto pazzi da chiamare un pezzo Ho Chi Minh. Non le stelle, non le strisce questa libertà, perché noi non siamo mica l'America. E quindi abbiamo ascoltato Assalto al Cielo, dal primo lavoro della Furia, la nona traccia. Featuring, così si dice, visto che cultura. My black ink on the page is like a black rain cloud. Che modo di dire. Covering the sky in hungry rage, cause I'm above this maze. Serpe in seno, poi ancora Tokarev, TKE, il sentiero di Ho Chi Minh. E questa è Meditation, ora sì. Nel frattempo ci chiama il conduttore di Niente da Vende. Vediamo se riusciremo a sentire venerdì. Non so se in via telefonica o addirittura in studio, insomma, qualcuno o i Serpe in Seno, qualcuno della loro crew, così per presentare anche in diretta, dal vivo, dalla loro viva voce, questa parte della serata di venerdì prossimo. E comunque il conduttore di Niente la Vende, mai che te facesse un complimento, vabbè. Cioè, i complimenti te li fa, ma sono una cifra nascosta, insomma, in mezzo a un sacco di... Hatred, sick of all the same day-to-day shit, and the way I blaze with the take this, or the fact di denigrazioni. My heartbeat races as I see the state of the scarred faces of kids in faraway places. They're strangers, but thinking of the part that I played in, degrading the nation. Got my heart aching, brain straining, thinking of ways to change it. But the past can't be erased, and we can't see change until people are aware of the faintness and evil government ways. They're brazen and straight dangerous and with deranged. If we can't see the way their behavior's crazy. Ma che volete? Anche questo è il bello della radio. From my mind to the pad to the music, I rhyme what's inside, I'm mad so I use it. Cries for improvement, time for a movement, time to define what's right, revolution. From my mind to the pad to the music, I rhyme what's inside, I'm mad so I use it. Cries for improvement, time for a movement, time to define what's right, revolution. With words I'm effective, my verse is connecting, reflecting my inner depth pips. This craft I'm blessed with's got me projecting my thoughts and questions. Rap, this purest expression, got me expressing my rawest aggression. Draft out the taunting oppressions that tore at my eminence and haunted my presence and taught them a lesson. No mourning, a blessing. No longer tortured by forms of regret, by the forces that kept my core all upset, by the thoughts that I kept in. Now I'll mention my thoughts and my stresses of all of the wars and the weapons that threaten death and depression, calls of distress that deafen, and so-called importance digress from the questions we mention, and they're perplexed as to why we resent them, and take steps to prevent the suppression, and suggesting the direction we step in. Look, this generation ain't gonna let them, this generation ain't gonna let in. From my mind to the pad to the music, I rhyme what's inside, I'm mad so I use it. Cries for improvement, time for a movement, time to define what's right, revolution. From my mind to the pad to the music, I rhyme what's inside, I'm mad so I use it. Cries for improvement, time for a movement, time to define what's right, revolution. Revolution, revolution, define what's right, revolution. E questo è Mr. Clock, invece, sempre serpe in seno. Eccola qua, che va a rifare il verso a Salto al cielo che abbiamo ascoltato prima, o almeno ne cita una parte. Manetta al quarzo, tre lancette su un quadrante, su rullante basso nell'istante che mi alzo, faccio un passo, sto in ritardo se rallento, cazzo, corro come fischia il vento, corro come dopo uno spavento, corro tipo, chiedo il conto e famo il vento, spara gli orologi, ammazza il tempo, spara sui necrologi, oggi è logico che non ho tempo per gli elogi, annunci nuove stragi, nel 2000 coi selvaggi ancora zoccoli negli ingranaggi, quando Mr. Clock vende la luna e saggi, mangi sangue e oro nei viali, mette mani di rinale, serpe in seno, pugni in tasca, brucia i calendari. Giorni tutti uguali, cambi solo i fusi orari. Quali varchi di frontiera, né confini né bandiera. Sol che sette mari non ha mai na mai la vela. Schiva questa vita come un eremita, tra le ombre mira prima che si fa mattina. Un sole sulle insorte schiere, stiamo fuori dal tuo tempo delle pene. Non ci beva la tua fonte del sapere, il mio caronte sveglia e cantiere. Sullo sciure giù se grinder, taglie sulla gaglia, serve il seno street fighter. Mani sudate sopra i fili del timer. Aspettami che arrivo puntuale come un vecchio con l'Alzheimer. Sì, arrivo. Ehi, sai che c'è? Che non c'è tempo per fregarsene. E allora vattene, devi andartene da questo tempo che ti mette in carcere. Corri lesto, muori presto, fuori è buio, pesto, ci ho rimesso e sto dimesso. Volevo essere libero, ma Mr. Clock non me l'ha concesso. Ammazza il tempo, spara gli orologi, ciò che cercavi oggi, mentre insorgi contro i toni grigi che dipingono la vita, scandita da lancette, sparita tra gli schemi del 24-7. Tutti zitti e muti, mentre scorrono i minuti, si addormentano giovani, si svegliano canuti. Lavoro che lo sfianca, la notte che lo svampa, sogno una mattanza, ma intanto dire che campa, arranca fino all'alba con chili di bamba. Se balla la samba e flamenco sulla rambla, il tempo va, passano le ore, cavi gialli e rossi sopra il detonatore. Veloce come Grindcorp e Faster Tupa Tupa. Arcar Capitolino rapa all'ombra della lupa. E se qualcosa cambia è tempo di una svolta. Guarda bene il Rolex, merda, è l'ora di rivolta. Se hey, sai che c'è, che non c'è tempo per fregarsene. E allora vattene, devi andartene da questo tempo che ti mette in carcere. Corri lesto, muori presto, fuori è buio. Questo ci ho rimesso e sto dimesso. Volevo essere libero ma Mr. Clock non me l'ha concesso. Sono Mr. Clock, stile italiano latino. Mi sbatto col tempo, largo e comprimo. Continuo assiduo e furioso, camminando per la calle sempre peligroso. Ti faccio il vuoto dentro, ti piaccio poco. Certo, è così che mi diverto, è così che ti inverto. I processi mentali e i concetti casuali poi puzzano di certo. E certo che vengo, c'è da cambiare il vento, ribaltare l'incerto, reiterare il già detto, scomodare l'eterno, aspettare l'inverno e congelare l'inferno. E tutte le cazzate che ti bevi, che sono poi le cose che ti tengono in piedi. Ma ti pare, io corro sempre uguale, sei tu che fai male a pensare che non mi vedi. E sai che c'è, che non c'è tempo per fregarsene. E allora vattene, devi andartene da questo tempo che ti mette in carcere. Corri lesto, muori presto, fuori è buio. Questo ci ho rimesso e sto dimesso. Volevo essere libero ma Mr. Clock non me l'ha concesso. E questa invece, dopo Mr. Clock, FMC Dynasty. Ora sì, con Satin Dabby, Onda Rossa 25 o'clock. Questo è drum and bass. Don't call me a FMC, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist. Anything more is just talk that. I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist. Anything more is just talk that is ignorant. Don't call me a FMC. I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist, yo. Listen. Please, don't book me to keep the balance. Book me to smash it for wheel ups, for antics. To see the people, them, feel good and dancing. But if it's cause I'm female, then don't even ask me. No, this ain't a sexy up ting. This is a messy club ting. One pictures, this is me mug. Gun fingers, jump up, bump in the system. No time for put on no lipstick. I come with them lyrics blood instead of gimmicks. If I ever did switch, then I give you permission to ditch this. This ain't a vision ting. I want you listening to the linguistics and not lingering at my midriff. I know that sex sells. I'm not stupid, and no disrespect to those girls that use it. But my wealth resides in my music, the truth and inspiring a movement. Don't call me a FMC, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist. Anything more is just talk that is ignorant. Don't call me a FMC, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist, yo. Listen. If you say I'm sick for a chick, mate, I'll instantly think you're a prick. Straight flip the script and say I think you're sick for a man, and see how you react and you see that it's daft. Yo, I'm just saying you're dope for a bloke. Quit complaining over a compliment. Why won't you take it? What is your problem, bruv? Moaning, campaigning. Oh, you can see it's frustrating. Hey, come play at this special date that we made for the ladies. Segregation's hella frustrating. Bruv, this ain't boxing. Stop with that nonsense. Do we really need our own concerts? I can jump up and rock a spot with the gents and get props and respect, cause I dump it the set. Trust, I don't need a step up or a separate section. It's offensive, I get vexed when it's mentioned. Don't call me a femcee, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist. Anything more is just talk that is ignorant. Don't call me a femcee, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist, yo. Listen. What's it like repping for the women? Right, whoever said that was my mission. In general, I'm just expressing my feelings to whoever wants to listen. Making genuine connections and spreading my vision. And no, there's no pressure to be sexy. There's plenty of evidence I'm a heavy MC. And I know better, so it don't ever affect me. I'm grown and a go-getter, so no, you won't ever tempt me. Oh, what about the chauvinists? I don't know, cause I don't roll with them. And no, yo, there's no challenges. No one's demanding that I go and slag it up. And no, there's no barriers when I stand out in the masses and I'm talented. Yo, I'm rapping immaculate, never stammering. Grafting off my own back so I don't tackle management. Don't call me a femcee, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist. Anything more is just talk that is ignorant. Don't call me a femcee, I'm purely an MC. Anything more is just talk that is empty. What's with the distinguishing? I'm just a sick lyricist, yo. Occorre distinguere. Femcee. E questa è Confession. Sette minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, se ne va. Non prima però di avervi ricordato innanzitutto il 9 novembre prossimo. Not for the applause, it's much more than. Yo, this is a calling, calling forces that are pure. Common... Radio Onda Rossa presenta ora sì una delle più interessanti artiste hip hop della scena, militante inglese, serpe in seno da Roma, Tokarev da Bari. E la presentazione della Scarceranda nuova di stampe del 2019. Centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, via Federico D'Alpino 100 celle Roma, ingresso a 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica con le selezioni e le repliche e si riprende in diretta alle 8 domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadini, redazionale della mattinata, fino alle 13 quando ci sarà il GR. Si riprende più tardi con tutta scena cinema e poi Attica Blues, oltre alla Back Music. Alle 18 il Mezzedes, i redazionali del pomeriggio di Radio Onda Rossa. Alle 20 lo spazio comunicazione, uno spazio poi dalle 20 alle 23 molte volte occupato dalla prosecuzione, l'extended play del Mezzedes. E alle 23 i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, anche chi vive nei ghetti o nei lager per migranti che hanno diversi livelli di controllo ma un unico scopo, è quello cioè di tenere i migranti in campi essenzialmente di lavoro, di farli lavorare condizioni schiavistiche per tenere basso il costo delle merci. For elders, all generations, whether in your club or in your local estate. Detta così pare semplice, ma probabilmente lo è anche. Semplice. Bella a tutti e a tutti, ci vediamo venerdì al Forte e ci sentiamo mercoledì prossimo, daje! Communist moon.